Carissimi ascoltatori, anche questa sera iniziamo con la proclamazione del Credo o simbolo degli Apostoli. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Questa sera entriamo nell'argomento, nel tema che riguarda Gesù Cristo. La seconda parte del credo riguarda il Signore Gesù. Credo in Gesù Cristo. La nostra professione di fede si sviluppa in tre parti, come abbiamo già detto: credo in Dio Padre, e ne abbiamo parlato, credo in Gesù Cristo, credo nello Spirito Santo. La seconda parte, quella che riguarda Gesù Cristo, è la più importante. La rivelazione di Gesù Cristo è la rivelazione del Padre e dello Spirito Santo, perché, come ha detto Gesù, noi possiamo conoscere il Padre solo se Gesù Cristo ce lo vuole rivelare, e noi riceviamo lo Spirito Santo solo se Gesù ce lo vuole donare. Il vero Dio, l'unico Dio esistente, è Trinità, un solo Dio in tre persone. Questa sera parleremo anche della Trinità nel modo più semplice, più familiare, più elementare possibile. La mente umana e i pensatori più geniali non potevano arrivare a sospettare e a comprendere questa verità: un solo Dio, tre persone che formano una famiglia, una comunione, una comunità così affiatata nell'amore da essere appunto un solo Dio. E perché noi cristiani conosciamo questo? Non per la nostra bravura, ma solo perché ci ha rivelato queste verità Cristo. Per conoscere il vero Dio è necessaria la rivelazione, è necessario Gesù Cristo. Diversamente diciamo di Dio quello che pensiamo noi, ma non sappiamo di Dio quello che dice Lui di se stesso, quello che pensa Lui sul suo conto. Gesù non è un'idea astratta nata a tavolino, è un uomo vissuto 2000 anni fa in Palestina, un uomo che non ha mai cessato di affascinare l'umanità, l'uomo più amato e anche l'uomo più combattuto. Chi è Gesù? Gesù, nella lingua originale di Gesù, Yehoshuah, significa Dio salva. Giuseppe, imponendo il nome di Gesù al bambino che Maria aveva partorito a Betlemme, non ha fatto altro che obbedire a un ordine ricevuto da Dio per mezzo dell'angelo. L'angelo aveva detto a Giuseppe: il bambino che nascerà da Maria lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Gli apostoli e i contemporanei di Gesù videro un uomo, possiamo dare la carta d'identità di Gesù, nato a Betlemme in Palestina al tempo dell'imperatore Augusto e del re Erode, di professione carpentiere, o come dice il Vangelo di Marco, tecton in lingua greca, che vuol dire colui che lavora la materia grezza per renderla utile agli usi umani. Quindi qualche volta troverete la traduzione carpentiere, fabbro. L'importante è che rimaniamo dentro in questo ordine di idee: uno che lavora la materia per renderla utile, per costruire qualche cosa. Residenza di Gesù a Nazaret in Galilea. Gli apostoli e i contemporanei di Gesù videro un uomo che aveva degli amici, che amava i bambini, che sentiva compassione, che piangeva, che andava in collera, che pregava, che andava regolarmente ogni sabato alla sinagoga, che soffriva fisicamente e moralmente. Hanno visto un uomo che moriva, è morto sulla croce. Videro un uomo, uno chiamato Gesù, che non sapeva tutto e non aveva una scienza universale non necessaria per la sua missione. Gesù in Palestina allora non sapeva l'italiano, non sapeva che avremmo inventato il motore a scoppio o che saremmo andati sulla Luna. Come uomo sapeva le cose che poteva sapere un uomo del suo tempo che viveva in Palestina. Videro un uomo, non una marionetta, un uomo libero. Videro un uomo in tutto simile a noi, fuorché nel peccato, fuorché nella cattiveria, e per fortuna che Gesù non ha peccato, non è stato cattivo. Diversamente, come poteva portarci il rimedio, la medicina ai nostri peccati? Ma Gesù era anche un uomo sorprendente. La gente del suo tempo rimane stupita, spaventata, scandalizzata, perplessa. Leggo dal Vangelo di Marco al capitolo primo, la gente dice: che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità. Gesù comanda persino agli spiriti immondi e gli obbediscono. E ancora dal Vangelo di Marco: perché costui parla così? Bestemmia, chi può rimettere i peccati se non Dio solo? E Gesù aveva detto al paralitico: uomo, ti sono rimessi i tuoi peccati. Allora questo Gesù ritiene di non essere solo un uomo, ma di essere anche qualche cosa di più. E ancora dal Vangelo di Marco: chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare obbediscono? A Cesarea di Filippo Gesù interroga i suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? Ed essi gli risposero, riportando quello che diceva la gente: alcuni dicono che sei Giovanni il Battista, altri Elia, uno dei profeti. Ma egli replicò: voi chi dite che io sia? E Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. L'uomo Gesù è il Cristo. E che cosa vuol dire Cristo? Qualcuno pensa che Gesù Cristo sia un po' come dire Giovanni Bianchi, insomma il nome e il cognome. Gesù è il Cristo al punto che quasi i due titoli vanno uniti, Gesù Cristo, come usiamo dire solitamente. Tuttavia Cristo non è un nome come Gesù. Cristo è la traduzione greca dell'aggettivo aramaico Messia Mashiach. Che cosa significa? Significa uno che ha ricevuto la consacrazione con l'unzione di olio. L'Evangelista Giovanni ci riporta in aramaico l'esclamazione di Andrea rivolta al fratello Simon Pietro: abbiamo trovato il Messia, che significa il Cristo, e lo condusse da Gesù. Messia o Cristo è colui che ha ricevuto l'unzione d'olio, che è stato consacrato da Dio, sacerdote, re e profeta. Nell'Antico Testamento l'olio sacro dell'unzione versato sulla testa di qualcuno rappresenta il rito con cui Dio consacra un profeta, un sommo sacerdote e un re. Questo gesto di versare l'olio sacro sulla testa di qualcuno è un segno sensibile, efficace, potremmo dire noi oggi un sacramento, della comunicazione dello Spirito Santo a colui al quale è stata affidata una missione a servizio di Dio e del suo popolo. Nella storia di Israele ci sono stati tanti consacrati da Dio, re e profeti, e tra i tanti Messia che c'erano stati nella storia di Israele si stava aspettando l'arrivo del Messia con la M maiuscola, il discendente di Davide, il re di Israele. Gesù, il Messia. Ci si chiede come mai la gente non l'ha riconosciuto e le autorità ebraiche l'hanno respinto, rifiutato, eliminato. Gesù, il Messia, povero, perseguitato, perdente, morto in croce, non se l'aspettava nessuno, non piaceva a nessuno, non piace neanche oggi. Anche i suoi amici più intimi, gli apostoli, si erano stretti attorno a lui, lasciando il lavoro e la famiglia, sperando di far fortuna, di far carriera. si controllavano e si litigavano per avere gli avanzamenti, i primi posti. Il popolo di Israele attendeva un re guerriero, un liberatore politico che desse lustro alla Gerusalemme della Palestina, quella della terra. E anche dopo la morte di Gesù ritorna fuori da capo questa domanda: quando è che metti in piedi il regno di Israele qui in terra? Dopo la morte di Gesù alcuni stavano tornando a casa loro e alle loro faccende, delusi e tristi. I due discepoli di Emmaus dicono a Gesù: noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. E proprio nell'imminenza della sua ascensione al cielo Gesù si sente ancora rivolgere la domanda, la troviamo negli Atti degli Apostoli: Signore, è questo il tempo in cui ricostruirai il regno di Israele? Quindi tutta la gente che lo attorniava aspettava che lui diventasse re a Gerusalemme e cacciasse via l'impero romano che dominava sul territorio di Israele. Gesù ha dovuto lottare tutta la vita contro Satana, contro i giudei, contro gli stessi discepoli apostoli che Satana metteva come intralcio sul suo cammino per deviarlo dalla sua missione e dalla volontà del Padre. Tutti lo volevano un messia vincitore che ammazzava gli altri, che prendeva il potere, che aveva l'esercito, che faceva molti soldi. Gesù spiega ai suoi intimi il segreto della sua messianicità. Il figlio dell'uomo, il Messia, deve soffrire molto e venire ucciso e risuscitare il terzo giorno. Allora diciamo, per Gesù che significato ha avuto la parola Messia? Cristo. Per Gesù Messia, Cristo, ha significato concretamente unto con l'unzione di olio, consacrato dallo Spirito Santo e battezzato nel proprio sangue per dare la vita a tutti. Il credo continua proclamando che Gesù è l'unico unigenito figlio di Dio. I discepoli, gli apostoli che stavano notte e giorno con Gesù, scoprirono solo poco per volta che in quest'uomo c'era una presenza speciale di Dio. Solo dopo la sua risurrezione e la Pentecoste ebbero la certezza che Gesù era Dio in persona diventato uomo. Che itinerario seguirono gli apostoli per arrivare a questa scoperta? La domanda ci interessa perché è l'itinerario che vogliamo seguire anche noi insieme con loro. Seguirono l'itinerario dei miracoli. I giudei del tempo di Gesù avevano la testa piena di miracoli, miracoli grandiosi come le piaghe d'Egitto, il mare diviso dal bastone di Mosè, la manna piovuta dal cielo. Prima di Gesù i profeti avevano risuscitato morti, guarito lebbrosi, moltiplicato pane e olio. I miracoli di Gesù non erano poi così sensazionali, anzi erano meno sensazionali di quelli dei suoi predecessori. Paragonato a Mosè, Gesù ne usciva abbastanza ridimensionato, un messia debuttante. Nonostante che Mosè avesse fatto miracoli più clamorosi di quelli di Cristo, nessuno mai lo aveva creduto Dio, quindi perché avrebbero dovuto credere Dio Gesù Cristo che faceva dei miracoli meno clamorosi? Ciò che attribuisce ai miracoli di Gesù un peso inaudito, una differenza sostanziale, una caratteristica unica rispetto ai miracoli di Mosè e dei profeti è questo: i miracoli di Gesù sono miracoli personali. Gesù aveva il potere personale di fare i miracoli. Allora, nell'Antico Testamento i profeti annunziano che Dio farà i miracoli e che essi sono semplicemente degli strumenti. Quando Elia risuscita un ragazzo, invoca il Signore e il Signore lo ascolta. Quando Gesù invece risuscita un ragazzo, come leggiamo nel capitolo 7 di Luca, fa un semplice gesto, dice una sola parola, di suo, senza invocare Dio. Il Vangelo dice: Gesù, accostatosi, toccò la bara, poi disse: giovinetto, dico a te, alzati. Il morto si levò a sedere e incominciò a parlare. Ecco, allora Mosè e tutti gli altri dell'Antico Testamento che avevano compiuto dei miracoli dicevano: Dio per mezzo mio farà dei segni, delle opere grandiose. Gesù fa i miracoli in propria persona. È questo che lo presenta come un uomo che era convinto di essere Dio e che ha dimostrato a noi di essere veramente Dio. A che cosa dovevano servire i miracoli? Viene subito spontaneo: è per fare un beneficio ai malati, perché stessero bene. No, non è quello lo scopo più importante. Il miracolo è importante non tanto per il beneficio che produce al destinatario, a colui che viene guarito o risuscitato, ma è importante perché è un segno, una prova che Dio è d'accordo e mette la sua firma su quanto Gesù fa e dice. Lì con Gesù c'è Dio, dentro in Gesù c'è Dio. Questo sarà anche l'argomento dimostrativo e convincente che gli apostoli tireranno fuori fin dal primo discorso a Pentecoste. Leggo dagli Atti degli Apostoli, capitolo secondo. Uomini di Israele, ascoltate queste parole. Gesù di Nazaret, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni che Dio stesso operò fra di voi per opera sua, come voi ben sapete, dopo che secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio fu consegnato a voi, voi l'avete inchiodato sulla croce per mano di empi e l'avete ucciso. Ma Dio lo ha risuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. I fatti del Vangelo rivelano che Gesù è uomo e Dio. Il Padre ha mandato il Figlio suo a farsi uomo perché in quest'uomo noi conoscessimo, incontrassimo e amassimo Dio. I Vangeli ci presentano Gesù come il Figlio unigenito del Padre, venuto a rivelare il vero volto di Dio. Nel Vangelo di Giovanni al capitolo 1, versetto 18, leggiamo: Dio nessuno l'ha mai visto. Proprio il Figlio unigenito che è nel seno del Padre, lui lo ha rivelato. E Gesù ci ha presentato Dio come pluralità di persone, non come una persona sola, così avevano creduto fino a quel momento anche gli ebrei, ma come più persone. Gesù nel Vangelo ha presentato il Padre, se stesso e lo Spirito Santo. Leggo dal Vangelo di Giovanni al capitolo 14. Rispose Gesù: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi, io e il Padre, verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Queste cose vi ho detto quando era ancora con voi, ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Ecco in questo brano del Vangelo che Gesù, in prima persona, parla del Padre, parla di se stesso come figlio del Padre e parla dello Spirito Santo. Un solo Dio, tre persone. I Vangeli non hanno mai fatto la somma dei tre, non hanno parlato di Trinità, non usano nemmeno il termine persona come usiamo noi oggi. La realtà di Dio non può essere racchiusa in parole o in formule, ci sta stretta, anzi non ci sta affatto, perché Dio è infinito. Un vescovo anglicano, quindi inglese, ha scritto un libro che ha il titolo Questo non posso crederlo. E ascoltate che cosa dice lui per quanto riguarda la presentazione della Santissima Trinità. Una volta, alla fine di una mia conferenza, Qualcuno mi pose questa domanda: come insegnerebbe a un bambino la dottrina della Trinità? Di rado mi ero sentito rivolgere un quesito così facile e risposi: non gliela insegnerei affatto. John Robinson ha ragione. La Trinità non è una realtà da insegnare. La Trinità è la famiglia di Dio. E voi che mi ascoltate, siete tutti nati in una famiglia e vivete in una famiglia e avete fatto una vostra famiglia. Ora, le realtà della famiglia non si racchiudono in fredde lezioni come se fossero matematica o geometria, ma si vivono e possono essere progressivamente comprese attraverso l'esperienza vissuta. Come hanno fatto i vostri figli a capire che cos'è una famiglia? Vi siete seduti in cattedra, avete fatto 20 lezioni, 3 anni di scuola? No, sono nati nella vostra famiglia, hanno aperto gli occhi, hanno incominciato a sentire, a vedere, a constatare, sono cresciuti in una famiglia. Certo, anticipo subito, se chiedete ai vostri figli fatemi una tesi di laurea sulla famiglia, forse non sanno scrivere 2 righe, ma sanno che cos'è una famiglia, non in teoria, ma in pratica, ed è la pratica che conta. Ecco, allora portiamo avanti questo esempio familiare. Il neonato non sa di avere una famiglia e non sa cosa sia una famiglia. Fin dalle prime settimane di vita si sente circondato da tanto amore, intuisce attorno a sé una tenerezza che risponde a tutte le sue necessità, la madre. Coglie questa tenerezza come una indistinta ma onnipotente, buona, attenta e premurosa. In seguito scoprirà che questa presenza è molteplice senza cessare di essere una. Voce acuta, quella della madre, o voce grave da uomo, quella del padre. Viso vellutato, quello della madre, o viso barbuto, quello del padre, mani delicate o mani forti. Sono in molti a vivere attorno a lui e per lui un unico amore, uno stesso amore. Poi il bambino distinguerà papà e mamma, intuirà che egli è il frutto del loro comune amore. Apprenderà che essi vivono l'uno per l'altro e tutti e due per lui, per i suoi fratelli e le sorelle già nati o che nasceranno dopo di lui. Tutte queste persone care si imprimeranno chiaramente nella sua mente e nel suo cuore. E, penso che siate d'accordo con me, per capire tutto questo non ha avuto bisogno di un trattato scientifico e neppure di un corso accelerato. Ha capito che cos'è la famiglia senza che nessuno gli facesse scuola. Certo, non chiedete a questo bambino di definire filosoficamente la famiglia, la paternità, la maternità, ma che importa? La famiglia non è un soggetto da recitare, ma è un luogo d'amore. Il bambino ha appreso che cos'è la famiglia non attraverso delle formule scolastiche aride, ma vedendola vivere e amare, sentendosi in essa amato, cercando di amare come essa è in essa, quindi imparando ad amare dalle persone che lo hanno amato nella famiglia. È questo il modo con cui Dio ci ha rivelato il mistero della sua famiglia, della sua vita trinitaria. Non per niente gli stessi nomi delle persone divine, padre, figlio, ci richiamano le realtà della famiglia. Dov'è che c'è un padre, dov'è che c'è un figlio? Nella famiglia. In nessuna pagina della Bibbia troveremo una formula di questo tipo, un solo Dio in 3 persone. Ma fin dalle prime righe della Genesi risulta la presenza di un grande amore attorno a una culla. Dio ha creato l'universo per collocarvi dentro l'uomo, la donna. Vi troviamo il nome di Dio unico in forma plurale, Elohim. E questo Dio creatore parla a se stesso al plurale. Notate, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, come quando più persone si consultano fra loro e arrivano a una decisione comune. Infine, facendo l'uomo a sua immagine, pensate, lo crea coppia con la capacità di generare dei figli, ossia l'immagine e la somiglianza di Dio è la famiglia, perché Dio è famiglia. Maschio e femmina li creò col potere di generare, li creò trinità, una trinità padre, madre, figlio, immagine e somiglianza della trinità di Dio. Riprendiamo questo tema sulla Trinità. Leggiamo alcuni brani di Vangelo dove nuovamente sentiremo confermata l'esistenza di Dio in tre persone distinte. Nel Nuovo Testamento l'angelo annuncia a Maria: lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Ecco nominate le tre persone, l'Altissimo, lo Spirito Santo e il Figlio di Dio. Dopo il battesimo di Gesù il cielo si aprì e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea come di colomba e vi fu una voce dal cielo: tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. Ecco nuovamente la voce del Padre sul Figlio prediletto e la discesa dello Spirito Santo. Gesù inizia il suo primo discorso pubblico con queste parole della Scrittura: lo Spirito del Signore è sopra di me. E poi aggiunge: oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Ecco allora di nuovo lo Spirito del Signore, ossia di Dio Padre, sul Figlio. Ecco di nuovo queste tre persone, l'unico Dio. E i brani del Vangelo che presentano Dio Trinità sono tanti. La stessa cosa potremmo dire delle lettere e degli altri libri del Nuovo Testamento. Il Figlio di Dio è venuto qui in terra ad abitare in mezzo a noi. Il Vangelo di Giovanni lo chiama Verbo, che in italiano sarebbe meglio dire parola, ossia colui mediante il quale Dio ci ha detto tutto e ha fatto tutto e ci ha dato tutto. Gesù viene in terra da uomo in mezzo agli uomini, non si comporta da professore. Non impartisce lezioni sulla Trinità, non fa neanche abbozzi geometrici. Ricordate il triangolo con scritto Dio che c'era sulla copertina del nostro libro di dottrina. Gesù non usa termini filosofici, natura, persona, essenza, sostanza. Vive semplicemente, vive com'è, ossia da figlio di Dio diventato uomo. Vive da figlio unigenito del Padre. Ad ogni pagina del Vangelo Gesù ha nella mente e nel cuore la volontà del Padre, prega il Padre, vive esclusivamente per il Padre, se si potesse dire senza mancare di rispetto, Gesù Cristo aveva un chiodo in testa, Dio Padre e basta. Lo chiama papà, babbo, in una forma diminutiva, vezzeggiativa, come i vostri bambini vi chiamano all'interno della vostra famiglia. Gesù, figlio unico di Dio, parla di suo padre come di una persona nettamente distinta da lui. Tra lui e il padre vi è una distinzione netta e nello stesso tempo sono una realtà sola, una sola divinità. Io e il padre siamo una cosa sola. E poi dice ancora, chi ha visto me, figlio di Dio diventato uomo, ha visto il padre. Verso la fine della sua vita Gesù annuncia una terza persona divina, il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome. Uno Spirito perfettamente distinto dal Padre e dal Figlio. La rivelazione dunque, i testi del Vangelo, i testi degli Apostoli, ci presenta tre persone distinte, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Ognuna è persona distinta e nello stesso tempo ci dice la loro unità in un solo Dio. Difatti noi diciamo, credo in un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Dalla risurrezione del Figlio e dall'effusione dello Spirito è nata la Chiesa, alla quale Gesù ha dato un ordine. E notate che cosa ha detto Gesù alla Chiesa. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco allora che la Chiesa non ha inventato nulla, la Chiesa non ha guastato Dio spezzettandolo. Tutte queste cose le ha dette Cristo, le ha rivelate Cristo. La Chiesa non fa altro che ripetere quello che il Signore Gesù le ha detto di dire. La vita della Chiesa è completamente penetrata da questo mistero trinitario. Pensate il segno della croce nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Pensate le conclusioni delle orazioni o la celebrazione dei sacramenti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo. Perché abbiamo tirato in ballo la Chiesa? Perché noi cristiani dobbiamo conoscere in una forma esperienziale, vivendo più che in una forma da scuola, di teoria, di verità aride, la Trinità, così come la Chiesa ce la fa conoscere attraverso le preghiere e le celebrazioni più comuni. La Chiesa non si preoccupa tanto di darci spiegazioni e ragioni, quanto piuttosto di intrecciare rapporti di familiarità con le persone divine, di farci vivere con esse e immersi totalmente dentro di esse nell'amore, di metterci in comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo nella preghiera e nell'amore. Due sposati forse non saprebbero dire che cos'è il matrimonio in teoria, però lo vivono in pratica. Dicevamo prima, un bambino non è andato a scuola per capire che cos'è una famiglia, forse non sa neanche dirlo, però la vive e l'ha capita benissimo. E allora questo mistero di Dio, Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, come si fa a entrarci dentro? Le porte di questo mistero non si aprono con il grimaldello dell'intelligenza o con la perspicacia delle formule, ma si spalancano solo all'amore. Dio è amore e si entra in contatto con Dio solo se ci si lascia amare da Lui, se noi lo amiamo. Ecco Gesù nel capitolo 14 di Giovanni che dice: se uno mi ama, il Padre mio lo amerà e noi verremo a Lui e prenderemo dimora presso di Lui, e lo Spirito Santo che il Padre manderà in mio nome vi insegnerà ogni cosa. Ecco allora, se uno mi ama, è amando Dio che riusciamo a capire, non tanto a livello teorico e arido, ma con l'esperienza che il Padre ci ama, che Gesù ci ama e che lo Spirito Santo ci ama, e che queste tre persone divine abitano dentro ognuno di noi, non sono al di là delle nuvole. Gesù nel Vangelo di Matteo rivolge questa preghiera a Dio. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenute nascoste queste cose ai sapienti, agli intelligenti, e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Noi constatiamo anche nel nostro mondo di oggi che tante umili persone che hanno lavorato e amato tanto, forse che sanno a malapena leggere e scrivere, sono entrati in profondità in questa fede, in questo amore in Dio, sono totalmente immersi in Dio. Molti sapienti, intelligenti, grandi scrittori, professori, non credono a niente, non vivono niente, forse non se ne rendono neanche conto di quanto la loro vita è arida proprio perché non sono immersi con semplicità nell'amore di Dio. Arrivati a questo punto, qualcuno potrebbe esclamare: finalmente ho capito il mistero di Dio Trinità. No, assolutamente. Ci siamo solo avvicinati al mistero parlando di un'esperienza nostra, elementare, semplice, quale il vivere in una famiglia dove ci sono varie persone che si vogliono tanto bene, che sono una famiglia sola, che diventano una carne sola, che si fondono l'uno nell'altro. Quando si tratta di Dio, ma anche quando si tratta delle persone umane, possiamo solamente supporre il loro mistero, intravederlo, intuirlo, senza veramente poterlo afferrare ed esprimere con nozioni chiare e formule esatte. Tu, uomo, hai capito il mistero di tua moglie, quello che ha nella testa, nel cuore. Una donna ha capito davvero il marito. I genitori hanno capito questo mistero che è il figlio. Veramente poco. Lo si intuisce perché l'amore apre tante strade, tante piste, tante porte, ma rimane pur sempre più quello che non abbiamo capito e conosciuto e scoperto di quel poco che abbiamo capito dell'altro o dell'altra. Facciamo un esempio, se volete. Prendiamo la vita, la nostra, quella di un animale, quella di una pianta. Ebbene, nessuno scienziato sa dirci che cosa sia esattamente la vita. Eppure la vita è in noi, attorno a noi, vi siamo immersi. Nonostante questo non esiste nessuna possibilità di definirla in termini perfetti. Un filo d'erba è vivo, nessun scienziato è riuscito ancora a creare da zero la vita di un filo d'erba. Un filo d'erba lo si mette tranquillamente sotto i piedi, lo si falcia, lo si lascia seccare, addirittura si butta il diserbante. Eppure è un mistero, è una realtà grandiosa. Abbiamo una certa intuizione di che cosa sia la vita, ma il suo mistero essenziale ci sfugge. Non conosciamo neppure noi stessi. Immaginatevi se riusciamo a conoscere la vita di un altro, di un'altra, la vita delle creature che ci circondano e sono nostri fratelli e nostre sorelle. Eppure noi continuiamo a vivere, tentando di balbettare su quanto viviamo, pur sapendo che la vita e le persone non si mettono in formule, non si riesce a metterle dentro in una cornice, ecco, ho rinchiuso la vita dentro in una formula esaustiva, perfetta. E allora, a maggior ragione quando si tratta della vita di Dio, della vita della Trinità, non pretendiamo di averla capita, di averla in qualche modo inserita totalmente dentro nel nostro angusto cervello. Abbiamo a disposizione solo parole inadeguate. Tentiamo di costruirci delle immagini con specchi deformanti. Abbiamo parlato prima della famiglia, che è a immagine e somiglianza della famiglia di Dio, per cui uno che rientra nella sua famiglia e si rende conto dell'amore che circola da una persona all'altra può avere una pallida, pallidissima immagine della famiglia di Dio e dell'amore che circola tra le persone divine. Allora, qual è la strada per avvicinarsi il più possibile alla comprensione della famiglia di Dio? L'abbiamo detto, lo ripetiamo perché è importante. La strada più adeguata è ancora e sempre quella dell'amore. Giovanni nella sua prima lettera scrive: carissimi, amiamoci gli uni gli altri perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è generato da Dio e conosce Dio, ama Dio, quindi entra nel mistero di Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore, e allora si può capire un po' Dio, entrare in Dio o lasciare che Dio entri in noi, come volete. Se noi ci accostiamo a Dio nell'amore, perché è l'unica via che porta a Dio. Dio si rivela come qualcuno e non come un complesso di forze vaghe stemperate nella natura. Ha un nome proprio, anzi, diciamo, si è presentato come tre persone, tre nomi: il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. E Dio si è rivelato come amore, abbiamo appena letto. E si può essere amore solo nei confronti di un'altra persona. Se Dio fosse una persona sola, sarebbe un egoista, perché amerebbe se stesso, perché non c'era nessun altro e nessuna cosa da amare. Se Dio è amore, vuol dire che in Dio esistono altre persone, perché l'amore è amare un altro distinto da sé. È altruismo l'amore, non ripiegamento su se stessi. Ecco allora che se Dio non fosse pluralità di persone, concretamente tre persone, non sarebbe amore. E se Dio non fosse amore, non avrebbe neanche creato il mondo che gli ha dato tanti grattacapi, e non avrebbe creato neanche me e neanche voi, e non saremmo qui questa sera a parlare né di Dio, né di noi, né del mondo. Ecco, è importante credere in Dio Trinità, Dio pluralità di persone, un padre che ama con tutto se stesso il figlio e gli dà la propria vita, un figlio che ama con tutto se stesso il padre da cui ha ricevuto la vita, e questo amore reciproco che li unisce e li fa diventare, li fa essere uno, è lo Spirito Santo, l'amore che lega il padre e il figlio. I teologi del Medioevo definivano lo Spirito Santo come osculum patris et filii, il bacio del padre e del figlio, quindi l'amore che legava le due persone della Trinità. Allora, Dio è amore, Dio è essenzialmente pluralità di persone, ed essendo persona è fondamentalmente rapporto e dialogo. Ogni persona si rapporta, parla, ama, si dona all'altra. Questo termine dialogo ci aiuta a comprendere che cosa significa allora questa parola verbo che è stata data come nome a Gesù dal Vangelo di Giovanni, o se volete parola. In principio esisteva la parola, e la parola era presso Dio, e la parola era Dio, e la parola si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Il termine greco usato da Giovanni è logos, che vuol dire appunto parola. La sua traduzione latina verbum sfortunatamente è stata trascritta e non tradotta in italiano. Abbiamo detto in italiano verbo. Noi, andando a scuola, sappiamo che il verbo è amare, vedere, capire. C'è il soggetto, il verbo, il predicato. Forse sarebbe cosa buona tradurlo in italiano, anche se il termine parola è femminile, mentre il termine verbo è maschile, e è più facile applicarlo al figlio di Dio diventato uomo maschio. Comunque la realtà è questa. Il figlio di Dio è chiamato parola perché è colui per mezzo del quale il Padre ci ha detto tutto, ci ha dato tutto e ha fatto tutto per noi. Dio è parola perché è amore, è rapporto. Non parla eternamente da solo, non si parla addosso. Dio è dialogo, il Padre parla d'amore con il Figlio. Gesù è la parola vivente del Padre, parola eterna, che 2000 anni fa è diventato uomo come noi. Thank you. Ecco, carissimi ascoltatori, facciamo questa quarta parte breve, un po' riassuntiva di quello che abbiamo detto su il mistero di Dio, della famiglia di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. San Paolo, parlando della conoscenza di Dio qui in questo mondo, mette in contrapposizione quello che possiamo vedere e capire oggi con quello che vedremo e capiremo in paradiso, e scrive nella prima lettera ai Corinti: ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo Dio a faccia a faccia. Allora guardiamo in uno specchio, in uno solo, lo specchio dell'amore, dato che San Giovanni in un passo delle scritture ci dà di Dio questa bellissima definizione: Dio è amore. Questo specchio è meno intellettuale dello specchio, per esempio, del triangolo con i suoi tre angoli comprendenti ciascuno una superficie unica e comune, roba per matematici, lasciamolo a loro. I filosofi dicono: io entro in me stesso nel mio io pensante che produce un pensiero che diventa parola, il mio pensiero produce la parola. Lasciamo anche questo ai filosofi, noi non siamo a questi livelli. Questo specchio è meno intellettuale di quelli che usano gli scienziati, ma è più eloquente, riflette meglio l'esperienza umana di tutti, perché tutti sanno cosa vuol dire famiglia, amore, genitori, figli, e ha anche un forte appoggio nel libro della Genesi. Riportiamo le parole che Dio disse quando volle fare qui in terra un'immagine di sé stesso. Creò la famiglia per farci capire già fin da allora che lui è famiglia. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Dio vide quanto aveva fatto ed ecco, era cosa molto buona. Per inciso ricordo il comando di Dio nell'Antico Testamento di non fare immagini di Dio, di non fare statue di Dio. E perché Dio aveva dato questo comando? Perché la sua immagine, la sua statua se l'era già fatta lui creando l'uomo e la donna. Quelle sono le mie statue vive che camminano, che pensano, che amano, quelle sono le mie immagini, le mie rappresentazioni qui in terra. Dio ci ha insegnato che è una famiglia, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. La famiglia umana quindi ci mette sulla buona strada, essa è l'uomo a immagine e somiglianza di Dio. La famiglia umana è lo specchio vivente più terso di Dio, famiglia, di Dio Trinità. Certo, la famiglia umana è un'immagine imperfetta. Voi quando vedete una fotografia riconoscete le persone, ma le persone sono più grandi, sono di carne e ossa, sono vive, la fotografia è un pezzo di carta. Però guardando quella fotografia dite: è quella famiglia lì. La famiglia umana è un'immagine imperfetta della famiglia di Dio, ma è pur vero che nel profondo della nostra esperienza familiare troviamo una pallida ma sconvolgente idea, come un invito e una nostalgia di ciò che Dio vive nel cuore della Trinità. Che cosa senti tu nei confronti dei membri della tua famiglia? Questo amore che collega genitori e figli, marito e moglie, è un amore che ci richiama. L'amore che circola nella famiglia di Dio è lo stesso amore, se volete, in una forma vissuta da povere creature qui in terra, ma ha la stessa sorgente nell'amore della famiglia di Dio. Cito un conferenziere, François Varillon, scriveva: molti cristiani di oggi, senza saperlo, coltivano un certo platonismo, si hanno in testa il Dio come l'ha scritto Platone, non il Dio della Bibbia. Essi bruciano il loro granello d'incenso al mito del Dio greco, che è una persona sola, individuo, perfetto, immobile, splendente. Mentre Il mistero rivelato da Gesù è quello di una famiglia di tre persone talmente unite dall'amore da essere un solo Dio. Allora ci chiediamo stasera, ma noi abbiamo in mente Dio come famiglia, Padre, Figlio e Spirito Santo, o è un essere lì immobile, fermo, come se fosse di ghiaccio o di marmo? Troppi battezzati, troppi cristiani, nella loro fede e nella loro preghiera, pensano di avere solo rapporti col Dio unico che pregano alla maniera, per esempio, degli ebrei o dei musulmani, ignorando praticamente che Cristo ci ha rivelato che Dio sono tre persone. La rivelazione e la liturgia ci invitano a incontrare personalmente il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Noi quando preghiamo, alle volte preghiamo il buon Dio come se fosse una persona sola. Concludo definitivamente con un'altra citazione presa da François Varillon. Il mistero della Trinità è il mistero della famiglia o comunità di Dio. Un Dio che fosse una persona sola non sarebbe un Dio vivente. La Trinità, ossia credere che Dio è una comunità, una comunione di tre persone, non è una variazione sul basso continuo della divinità, qualunque cosa ne dica il filosofo. Il filosofo dice Dio è una persona sola. I cristiani devono dire Dio è una famiglia, una comunità di tre persone. Dobbiamo quindi guardarci dall'insegnare prima di tutto Dio e poi successivamente la Trinità. Esaspero. Il catechista, la catechista parla tutto l'anno ai bambini di Dio. Nell'ultima lezione, prima di scappare per le vacanze, dice: a proposito, ragazzi, mi ero dimenticato di dirvi una cosa, però molto elementare, molto secondaria, che Dio non è una persona sola, ma sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. No, questa realtà non va messa nell'ultima lezione dell'anno catechistico, ma nella prima lezione e in tutte quelle che seguono. Prima bisogna presentare Dio Trinità, Dio Famiglia, perché così è il Dio nel quale noi crediamo e di cui il credo ci presenta le verità. Credo in Dio Padre Onnipotente e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, e nello Spirito Santo, e credo in un solo Dio in tre persone. Dio in tre persone. È di questo Dio che devono parlare i cristiani. Il buon Dio è il Dio amore, è il Dio in tre persone, è una famiglia, una comunità, una comunione di tre persone, talmente unite dall'amore da essere un solo Dio. Thank you.